Sicuramente oggi siamo qua anche per celebrare il ritorno ufficiale, diciamo, della Città 30 e non possiamo che esserne felici. Chiaramente questo ritorno deve essere proprio l'occasione per realizzarla a pieno, quindi sostanzialmente le nostre richieste, come già esplicitato a gennaio, che abbiamo consegnato un documento, abbiamo indetto un'assemblea in cui abbiamo chiesto di firmare un patto sulla Città 30, le nostre richieste sono quelle di portare avanti la realizzazione di tutte le opere di traffic calming previste, quindi attraversamenti rialzati, restringimento di carreggiate, cuscini berlinesi, tutto quel corredo, diciamo, ripristinare i controlli, per quanto sicuramente non siamo mai stati un raggruppamento, diciamo, che spinge su quello, e come al solito non sarà l'aumento delle multe a farci gioire ma la diminuzione di morti e feriti, ma sappiamo che senza controlli purtroppo il limite fa fatica, diciamo, a entrare davvero nelle abitudini di chi si sposta. Cogliamo anche l'occasione, insomma, per chiedere attenzione su quei punti che continuano a rivelarsi critici, quindi per esempio le radiali, che ancora presentano molti punti cui il limite a 30 km orari è assente. Pensiamo a Via Toscana, ad altre radiali, fare un po' il lavoro che si sta facendo su Murri con la coprogettazione, insomma, portarlo anche in altre zone. Queste in sintesi le nostre richieste.